fatto del mio sguardo, la mia donna e tutto quel che ho. Torno verso occhi sconosciuti che amando non so.